basta, Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui. Il mezzo! Già mi dico me! Farebbe grazia un culto fare. Come tu modi. Oddio. Così, così ti voglio. S'avvia, guida la sorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là si trizza un pativo. Al fumario del tuo voler non resta che un'ora di vita. Thank you.

Thank you. Vince le stiocre, scende al dolore.